ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. RadioTube Social Village di Marta Cagnola. Ci siamo, pronti al nostro sabato pomeriggio in diretta, 2 ore in diretta su Radio 24, ogni sabato pomeriggio dal giornale radio delle 16 fino alla soglia del giornale radio delle 18, le 2 ore di RadioTube Social Village e Social Network. La prima ora con un sacco di spettacoli, la seconda come sempre con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Questa settimana festeggeremo anche un compleanno molto importante, ma ovviamente vi sveleremo tutto più tardi. La prima ora invece è piena di musica, tanti artisti molto molto molto diversi l'uno dall'altro, varrà la pena, vi assicuro, scoprirli insieme uno dopo l'altro. Poi parleremo anche di un libro di un'amica di RadioTube più tardi, tutto questo nella prima ora del nostro RadioTube Social Village. Per tenerci compagnia, 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e anche per i WhatsApp, e poi ci sono i miei account social @MartaCagnola su Twitter e su Instagram. Cominciamo con la musica, cominciamo con un brano che mi è piaciuto molto, di un artista che a me piace molto e che vorrei farvi scoprire se già non lo conosceste. Insomma, partiamo così. Forse la luna cadenza al tempo, tingendo di grigio argento i fili d'erba del mondo, così dolcemente lo invecchia di notte in silenzio mentre sta dormendo. Oppure tra terra e tra luna c'è un vento che agita ogni momento del tempo e ci fa spavento. Ma io so che c'è un posto sulla luna dove tutta la paura perde consistenza e vola e vola. Io lo so che c'è un posto sulla luna dove tutta la paura perde consistenza e vola e se ne va. Questo pezzo, che io trovo bellissimo, si intitola Un posto ed è di un cantautore che aspettavamo da tempo. Bentornato a Piero Sidoti, buongiorno Piero. Buongiorno, buongiorno. Allora, appunto, Piero, da un po' aspettavamo qualcosa di tuo. Mi racconti di questo tuo brano che apre poi la porta a un progetto nuovo? Sì, questo progetto apre la porta poi a un disco, ovviamente. Questo è, diciamo, che è il primo capitolo di quelli che saranno i capitoli di un disco, che sarà un disco con delle canzoni d'amore. Questa prima canzone, che si chiama appunto Un posto, parla di un posto dove è praticamente una lettera che uno sussurra, anche potrebbe essere alla propria amata, appunto, dove gli si rivela che esiste un posto nel quale è possibile vivere in maniera aderente a se stessi e poter amare liberamente e perseguire i propri sogni. E appunto questo posto consente di fare questo perché è in assenza di paura. E questo posto qua appunto è sulla luna. Questa canzone è stata ispirata al film Il Grande Passo di Antonio Padovan, che ha come attori Giuseppe Battistone e Stefano Fresi, e in questo film appunto, io dopo che ho letto la sceneggiatura, peraltro ho fatto una piccola parte in questo film, appunto dopo che ho letto la sceneggiatura ero rimasto abbastanza incantato e suggestionato dal fatto che una persona, come appunto Battistone, che è questo personaggio piuttosto colorito, si andasse contro tutta l'umanità per perseguire i propri sogni, cioè costruire un razzo e andare a conquistare la Luna. Un tuo album lo aspettavamo da un bel po' di tempo, però. Innanzitutto vi ringrazio dell'attesa, appunto, che è sempre una bellissima cosa. Io sì, un album l'ho fatto 5 anni fa, l'ultimo che ho fatto, e quindi diciamo che li ragiono molto, ecco. li tento di fare degli album che siano almeno espressione di me e che siano pensati. Nel frattempo ho fatto molti spettacoli, ho fatto altre cose, però ho scritto appunto delle canzoni. Spettacoli dedicati agli chansonnier, anche uno dedicato a Gian Maria Testa, è sì, quella invece un po' la strada in cui tu ti inserisci? Assolutamente, ho fatto uno spettacolo del quale sono contentissimo, con la regia appunto di Paola Farinetti e con Massimo Cotto, scritto da Massimo Cotto. Massimo Cotto addirittura l'aveva scritto con Gian Maria Testa al tempo, poi Gian Maria Testa è scomparso e di lì abbiamo fatto una cosa nuova dedicata proprio a Gian Maria, dove Massimo appunto racconta, io canto appunto i principali chansonnier tra Genova e Parigi, quindi Gino Paoli, Paolo Conte, Tenco, Fossati, ma anche Jacques Brel, Bresson, Edith Piaf, Boris Vian, insomma tutta una serie, una carrellata di musicisti, di artisti enormi. E devo dire che è uno spettacolo al quale sono tanto, molto, molto, molto affezionato, oltretutto con Massimo siamo molto amici anche, quindi è stato molto, molto bello portare in giro questo spettacolo. Piero, tanti chansonnier, lo stesso Gian Maria Testa, si dividevano tra musica e professioni quotidiane. Tu hai sempre fatto l'insegnante? Io ho sempre fatto l'insegnante, sì. Direi che da questo punto di vista mi ritengo molto fortunato, perché penso di fare due mestieri che sono meravigliosi. Ecco, l'insegnante e il cantautore sono due mestieri che hanno uno scambio emotivo molto bello, e anche vedono tutti e due ogni mattina nel caso del professore, ma ogni serata nel caso del cantautore, che è diversa da un'altra, cioè un evento irripetibile sia la lezione che il concerto, e c'è una condivisione emotiva, quindi c'è questo comune denominatore che è fondamentale per la vita, ecco. Quindi ritengo due mestieri estremamente belli e piacevoli, e di essere molto molto molto fortunato. Ah, forse se uno chansonnier mi avesse insegnato la matematica avrei imparato qualcosa. Forse avrei avuto una chance anch'io. Ma guarda, la matematica è spiegabile a tutti. La cosa migliore per insegnare la matematica è spiegare a chi la sta insegnando che capisce la matematica. Poi tutto il resto è in discesa, giuro. Il problema principale è aver paura di sbagliare, ma come in tutto, no? Nella matematica però ha una caratteristica principale, che si impara solo ed esclusivamente sbagliando. E quindi una volta che uno sa che sbagliare è meraviglioso, perché la vita è tutto uno sbaglio meraviglioso, appunto anche la matematica può essere imparata da chiunque. Non esiste persona che non possa imparare la matematica. No, nel mio caso non ne sono così certa, però mi fido. Giuro che è vero. Piero, allora aspettiamo il tuo album per la primavera 2021. Assolutamente, primavera 2021. Aspettiamo l'album e aspettiamo anche un momento di rinascita generale, perché sarà una situazione comunque migliore, ecco, insomma. E se non altro sarà passato l'inverno. Ecco, se non altro quello. Grazie a Piero Sidoti. A presto, Piero. Grazie a voi. Radio Tube Social Village. E vi avevo detto che ci sarebbe stata molta musica in Radio Tube Social Village, tanti artisti l'uno diverso dall'altro. Se il primo blocco è stato dedicato a un cantautore molto raffinato, un cantautore premiato dal Tenco che mancava da un po' di tempo, come Piero Sidoti, in attesa del suo prossimo album che arriverà nella primavera dell'anno prossimo, adesso andiamo sul classico, andiamo a incontrare una grandissima signora della musica italiana, non possiamo che introdurla in questo modo. Non sbagliare. vita in cambio di niente. Io ti darò di più, io ti darò di più di tutto quello che avrò da te. Anche se tu mi amerai come non hai amato mai, io ti darò di più, molto di più. Una signora della storia della musica leggera italiana, che però adesso esce in libreria con la sua autobiografia dal titolo curiosissimo Tra bandiere rosse e acquasantiere. Benvenuta a Orietta Berti. Buongiorno Orietta. Buongiorno, eccomi qua. Ma che onore, che piacere. Sono un po' intimidita perché secondo me Orietta Berti ha la voce più pura, più cristallina, più bella di tanta musica leggera italiana. Bravissima Orietta, veramente. Beh, la tengo curata, eh. Ecco, come si cura? Intanto prendo subito appunti, perché interessa anche a me. No, la voce va curata perché sembra un muscolo, deve essere sempre in allenamento. Quindi io ogni giorno mi canto le mie canzoni o anche canzoni degli altri per una mezz'oretta, e poi arrivando magari a fine settimana cantare 2 ore di fila senza interrompermi, perché questo è l'allenamento vocale, è essenziale per mantenersi in forma vocalmente. Anni di carriera mai interrotti, perché la voglia di ascoltare Orietta Berti c'è sempre, diciamo la verità, cioè la chiamano sempre comunque, ancora. Sì, grazie anche a Fabio che quando abbiamo lavorato insieme anche a Tommaso Labranca, a quelli che il calcio e poi ad Anima Mia, lui ha trovato in me questo modo di esprimermi, facendo anche qualche gaff bonaria. E quindi ho un'altra, diciamo, personalità quando sono in televisione, non solo come cantante ma anche come opinionista, ecco, la mia maniera. E grazie a Fabio continuo a fare, insomma, tante ospitate parlando e criticando magari bonariamente la mia maniera e certi personaggi. E beh, vuol dire che però la sincerità, perché lei è sempre sincera, paga. Sì, perché è il mio modo di essere così. Sono stata abituata fin da piccola dai miei genitori, poi con Osvaldo non c'è tempo di dire le bugie, perché le bugie hanno le gambe corte, quindi sono sempre stata una compagna, una moglie molto, diciamo, sincera, perché è così che deve essere per mantenere un buon rapporto fra due persone. Però noi pensiamo sempre che il mondo dello spettacolo sia un mondo pieno di trappole, un mondo pieno di insidie. Come ha fatto lei, così sincera, trasparente, a resistere in un mondo così un po' complicato? Ma veramente ho avuto anche dei collaboratori molto onesti che mi hanno rispettato, si sono presi cura di me. Cominciamo con Giorgio Calabrese, che è stato il mio pigmaglione, è stata la persona che da una ragazza di provincia mi ha fatto venire a Milano a fare dei provini presso case discografiche e mi ha dato, diciamo, un'indicazione, mi ha portato in una casa discografica che mi hanno tenuto per 16 anni. Se non avessi avuto una persona del genere vicino, io sarei stata una ragazza di campagna che probabilmente avrebbe fatto la maestra d'asilo o la sarta, perché allora non c'era la comunicazione che c'è adesso, e quindi era molto difficile entrare nelle case discografiche e poterti far ascoltare facendo dei provini. Poi anche il lavoro nostro discografico è cambiato molto. Allora si andavano in tanti, andavamo nelle case editrici, no? Nelle edizioni, loro ti proponevano il materiale dei loro nuovi autori. E quindi tu potevi scegliere, avevi un ventaglio di proposte bellissime per andare o al Disco per l'Estate o a Sanremo, cosa che adesso è difficile. Magari un cantautore ti dà una canzone, ma la più bella la tiene lui, a te ti dà quella che secondo lui ritiene meno funzionale per lui. E tu, è cambiato molto il nostro lavoro. Però la cosa che mi incuriosisce è come si nasce in un piccolissimo paese, appunto tra bandiere rosse e acquasantiere, perché stiamo parlando delle zone molto stile Don Camillo e Peppone, una sì, famiglia sì, un po' così, e poi si viene catapultati in un mondo tanto diverso, ma rimanendo sempre dentro la bambina di Cavriago. Sì, beh, io con un'infanzia così bella, così piena, come avevo. La mamma, le bandiere rosse si riferiscono alla mamma, che era un'attivista comunista. Noi il mese di aprile in casa mia c'era solo della carta rossa, che tagliavano le bandierine per fare l'addobbo in tutto il paese, perché non era ancora permesso di festeggiare il primo maggio, l'addobbo in tutto il paese, quindi metri e metri di bandierine legate a una cordicella, e venivano applicate la notte tra l'aprile e il primo maggio in tutto il paese, non solo mia madre ma anche le sue amiche, la Bice, la Teresa, insomma. E io ero una bambina entusiasta di fare queste cose. E l'acqua santiere? Ho voluto mettere l'acqua santiere anziché dire le processioni, perché con mio papà andavo tutte le processioni, perché cioè ogni due mesi c'era una processione in paese, o per il santo del paese, o perché c'era una festività, o insomma, adesso non esistono più, quindi non potevo mettere tra bandiere rosse processioni, no? E l'ho messo acque santiere perché dopo nel tempo ho fatto collezione anche di acque santiere, però il mio pensiero era per ricordare quando andavo con papà alla rosata di San Giovanni, perché il detto qua, il 23 di giugno, dicono che se tu prendi la rosata di San Giovanni rimani sano tutto l'anno. Allora me lo devo segnare per l'anno prossimo, me lo devo segnare perché quest'anno ci vuole, ne avremmo bisogno. Darti quest'anno, invece nessuno si muoveva quest'anno da casa. Orietta, ci sono tanti momenti di vita, da questa infanzia ai successi internazionali, alla televisione, però è un po' anche come leggere un libro che ci porta attraverso qualche decina d'anni, qualche decennio italiano, perché c'è tanta Italia. Sì, sì, e infatti l'ho voluto proprio descrivere così, la mia vita, la mia carriera, e anche l'Italia del dopoguerra, come è cambiata. Mi ricordo che c'erano delle liti fra vicini di casa, perché uno era di un partito, l'altro era di un altro, però quando c'era bisogno, cioè, i colori sparivano e c'era la solidarietà, si aiutava, poi diciamo la verità, eravamo tutti poveri allora, quindi ci aiutavamo e c'erano persone che pagavano anche il mangiare al vicino di casa. Orietta, cosa le piace del giorno d'oggi e cosa non le piace, ripensando a quegli anni? Dunque, il giorno d'oggi mi piace molto la tecnologia, perché io ad esempio sto facendo un cofanetto che uscirà a dicembre per festeggiare i miei 55 anni di carriera. Se non ci fosse questo modo di lavorare con il computer non avrei potuto farlo, perché io sono in continuazione in collegamento con il maestro giù a Napoli, che stabiliamo le autorità, lui mi manda delle basi già fatte, io dico ok, la durata della canzone, quindi senza questo mezzo non avremmo potuto fare niente, nonostante che sono già andata 4 volte giù a Napoli con il permesso, facendo i test, tutto quanto. E poi quello che non mi piace è la nostra società, assolutamente, una società così fredda, così diciamo arrogante, che disprezza tutto quello che è del passato, ma noi se non amiamo il passato non potremo mai amare il futuro, quindi devono darsi una regolata, perché non si può andare avanti in una società così. Così egoista. Orietta, allora io intanto invito tutti a leggerlo, perché è veramente delizioso e c'è sì. Un'Italia che non c'è più, e l'Orietta Berti che conosciamo noi, tra bandiere rosse e acqua santiere, davvero delizioso. Orietta, un abbraccio forte. Grazie. A distanza, e speriamo di abbracciarci davvero allora in presenza, mi farebbe davvero tanto piacere. Magari. Speriamo. Grazie, speriamo. Orietta, un abbraccio virtuale, arrivederci, ciao. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. RadioTube Social Village. E dopo aver incontrato Orietta Berti, che ha presentato la sua autobiografia, davvero, davvero divertente, davvero carina, piena di vita e piena anche, come abbiamo sentito, di storia d'Italia, di tanti periodi lontani, più semplici, ma che scaldano anche il cuore, ricordi che scaldano il cuore. E dopo aver ascoltato insieme l'intervista a Piero Sidoti, perché Piero Sidoti è un bravissimo cantautore che dobbiamo scoprire, e soprattutto io attendo con grande ansia il suo album che arriverà in primavera. Adesso abbiamo la possibilità riascoltare una conferenza stampa alla quale ho assistito questa settimana. Allora, come sappiamo, le conferenze stampa sono ultimamente molto spesso, ormai quasi tutte, in streaming a distanza. Allora, questa settimana un gruppetto di giornalisti ha incontrato a distanza un grandissimo artista che ha presentato un progetto a lui dedicato. Allora, vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone, sicuramente indovinerete nel giro di qualche nota di quale canzone si tratta e che cantante esegue una canzone di questo artista al quale tanti artisti hanno reso un enorme omaggio. Ecco qua. Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, lungo alle nuvole di fumo nel mondo fatto di città, essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà. E oddio che moto dai bordi, allora, note di viaggio capitolo 2, e questa Dio è morto nella versione ovviamente di Zucchero Fornaciari, non avete secondo me impiegato neanche un secondo per individuare la canzone e anche l'artista. Ecco, questa Dio è morto nella versione di Zucchero Fornaciari è uno degli omaggi a Francesco Guccini realizzato insieme a Mauro Pagani da tanti artisti italiani, Elisa Ligabue, Carmen Consoli, Giuliano San Giorgi, Nazilli, Bruno Risas avevano realizzato Note di viaggio capitolo 1, e adesso ci sono appunto Zucchero, Fiorella Mannoia, Emma Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Jack Savoretti, Levante, Mahmood, Petra Magoni, Ermal Meta, Fabio Ilacqua e Mauro Pagani, e i Musici, che sono appunto un gruppo al quale Francesco Guccini è molto molto molto affezionato. Questa settimana Francesco Guccini ha presentato questo Note di viaggio capitolo 2, Non vi succederà niente, questo è il sottotitolo, insieme a Mauro Pagani. Appunto, ha incontrato a distanza la stampa e intanto ha commentato un po' l'idea di questo grande omaggio. Ecco cosa ne pensa Francesco Guccini. Lo fa sempre piacere, soprattutto anche da gente che non conoscevo. Stimola il mio ego, che non è mai stato molto in superficie, anzi. Il disco lo to, a parte il fatto che è una copertina bellissima, è più bella forse del primo, anzi sicuramente più bella del primo. E anche come disco penso che sia migliore, molto migliore. Ieri, ascoltando il disco realizzato, cantichiavo, ogni canzone la cantichiavo, e ogni tanto, a volte, mi sono anche un po' commosso, ma non per la canzone in sé, perché queste canzoni non sono nate per caso, sono nate in motivi particolari della mia vita. Io non sono uno che gira col taccuino prendendo spunti di qua e di là. Cioè, le canzoni nascono da momenti della mia vita, da momenti miei della mia vita passata. E quindi questo mi ricordava quei momenti, e per questo mi sono anche un po' commosso. E come tutti gli anziani, ho compiuto 80 anni lo scorso giugno, forse un po' rincoglionito, è diventato un po' più sentimentale del normale, ecco, questa è la verità. Vedi, cara, è difficile spiegare, è difficile parlare dei fantasmi di una mente. Vedi, cara, tutto quel che posso dire è che cambio un po' ogni giorno e che sono differente. Vedi, cara, certe volte sono in cielo come un aquilone al vento che poi a terra ricadrà. Vedi, cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. La versione di Vinicio Capossela di Vedi Cara in questo secondo volume di Note di Viaggio, l'album dedicato a Francesco Guccini. Francesco Guccini, che ha ragionato un po' anche della musica, che ha ragionato anche un po' del suo tempo in questa conferenza stampa, in questa presentazione a distanza che abbiamo fatto con lui questa settimana. Ad esempio, ha ragionato un po' del nuovo modo di fare canzoni rispetto al suo, queste canzoni che si fanno in digitale, che magari devono essere molto corte, no? Che devono durare 2 minuti al massimo. Ecco, all'epoca non era così, le cose erano un pochino diverse, ma sentiamo cosa ha spiegato Francesco Guccini. No, voglio dire, cantarle no, perché poi non canto più, non ho cantato questi due pezzi, il primo musicato da Mauro, bellissimo, e il secondo musicato da Flacco. Ma mi hanno costretto a cantare, quasi non volevo cantare, perché non ho più la voce. Mi va via la voce verso le 11 della mattina, sparisce la voce, quindi non avrei più la forza di cantare. Ecco. Quindi, cantiamo alle 8, dai. Bisogna cantare alla mattina. No, cantare, non mi viene voglia di cantare, no. Ricordavo come le cantavo. Non scrivo più canzoni dal 2000. È 11, se non sbaglio, l'ultimo disco che ho fatto. Sì, l'ultima, quello sui migranti, che ho scritto soltanto il testo. In quell'angolo lì ci sono due chitarre che non apro più dal 2011 in custodia, e quindi non sono impollerato perché sono dentro, però moralmente lo sono. Quando mi dicono, ma ti mancano i concerti, esatto? Dico, no, mi manca. Quando incontravo i ragazzi prima dello spettacolo, che facevamo... Noi mangiavamo sempre, c'era un modesto catering fatto da un genovese. E dopo lo spettacolo, dopo il concerto, quando andavamo a mangiare assieme, e a bere assieme, che facciamo 16 bicchieri della staffa prima di andare a letto. E questo mi manca, le barzellette che arrivavano, le storie che arrivavano. Vedere girare con questi musicisti che erano amici, ovviamente. E poi bravissimi uno di bravo dell'altro. E questo mi manca. Il concerto in sé, perché ho sempre avuto timore, ho sempre avuto paura. E quindi qualche tempo fa facevamo due parti di una stessa serata. Io venivo intervistato per la prima parte e parlavo a volta libera della mia storia, della mia vita. E poi dopo toccava loro fare le canzoni, facevano le mie canzoni. E con grande gioia disse, adesso tocca a voi, datelo voi sul palco che io vado via. C'è in fondo a quest'oggi di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale, di gente che si frantuma in un fiato senza soffrire, senza capire, e i tuoi pensieri sono solo un oiato tra addormentarsi e morire.

sono sempre stato pessimista, quindi non è che lo veda tutto del tutto rosa. Il presente lo viviamo fra la paura del Covid, del coronavirus, con mascherine o meno, con prudenza o meno, difatti questa conferenza è fatta a distanza con questi nuovi sistemi per evitare contatti ravvicinati del terzo tipo. E quindi, anche se abitando io in questo paesino di montagna, che nata la metà d'età va benissimo, ho dello spazio attorno a casa e quindi faccio quella vita di sempre, che vuol dire ascoltare audiolibri, perché non riesco più a leggere, non cedo più, lavorare al computer, lavorare, scrivere al computer, guardare la televisione e qualche volta andare a mangiare fuori con gli amici. Ecco, questo è la vita, ma a me va bene così per il momento. Quindi spero che il futuro sia di questo genere, mi sia permesso di portare avanti questo tipo di vita che sto facendo adesso. Radio Tube Social Village. Ci diamo un po' alla lettura, dai, un libro per sognare, per così vivere un momento di leggerezza. Io me lo leggo sicuramente domani, mi metto sul divano con la copertina e mi metto un po' a sognare. Intanto entriamo un po' in atmosfera, entriamo in atmosfera così. Erano gli Oasis, chissà chi si ricorda Stand By Me. So what's the matter with you? Sing me something new. Cantami qualcosa di nuovo, anzi qui, cantami qualcosa che mi faccia venire un po' di nostalgia. Uno dei libri, delle prime canzoni citate in questo libro. I primi mesi dell'anno scolastico li riconoscevi dal profumo del vento in motorino. Sapevano di cose nuove, ma anche di giorni tutti uguali da gustare, di aspettative ed errori da riparare, di diari da riempire. Quell'anno però era diverso. Era l'anno delle responsabilità, delle scelte per il futuro, delle risposte all'unica domanda che contava: e tu che cosa vuoi fare da grande? Beh, insomma, leggere certi libri è come guardare dei film piacevoli, divertenti, e io ve l'ho detto, domani mi dedico a questo. Ci vediamo all'uscita, che è il nuovo libro di Silvia, Stefania e Ilaria, cioè le autrici del progetto web I Trentenni, e ci colleghiamo subito con una delle trentenni, Silvia Rossi. Ciao Silvia! Ma Marta! Ma che bello che risentirti! Ma poi con questi Oasis sotto mi è venuta una botta di liceo subito proprio alla grande. Allora Silvia, I Trentenni, progetto, prima un piccolo progetto web, poi diventato un progetto enorme. Intanto voi avete continuato le vostre carriere, avete fatto le vostre famiglie, anzi abbiamo un ospite che però sono quasi due oggi, eh? È vero, sono quasi due. Calza. Ah, che meraviglia, che meraviglia, stanno diventando grandi le trentenni. Sì, allora il primo libro, che era andato benissimo, era Hai detto 30, adesso Ci vediamo all'uscita. Mi racconti un po' di questo Ci vediamo all'uscita, qual è la storia, e soprattutto io ho detto è un po' come vedere un film, qual è la storia di questo film Ci vediamo all'uscita? Ma intanto grazie, perché anche per me è sempre un piacere esserci. Sì, hai detto tutto giusto e adesso ti racconto, ci vediamo all'uscita. Ci vediamo all'uscita, la storia, vabbè, innanzitutto di un'amicizia, che sono cinque personaggi, maschi e femmine, quindi non sono soltanto femminili come erano le protagoniste del primo romanzo. Siamo all'ultimo anno di liceo, della scuola superiore, e i nostri protagonisti devono fare i conti con cosa farò da grande, cioè con la domanda esistenziale che ci siamo fatti tutti, quindi alle prese con chi voglio essere, le paure, anche le gioie, i disagi, soprattutto quelli degli anni 90, siamo nel 1997-98, quindi ecco, ce li ricordiamo bene, però ecco, le emozioni erano forse quelle che contavano di più. C'è un prologo e un epilogo nella contemporaneità, perché in realtà c'è un segreto che questi amici non conoscono di uno dei loro, di uno di loro, insomma. Mi piace. Io il prologo l'ho già letto, non mi sono ancora catapultata negli anni 90, però visto che ogni capitolo ha sostanzialmente una colonna sonora, intanto ha una canzone che lo presenta, quindi lo leggiamo anche ascoltando le canzoni. Ecco. Cioè facciamo proprio, anche perché in copertina c'è il disegno di un Walkman con le cuffiette come li usavamo all'epoca, e il Walkman e la cassetta col nastro un po' allentato che noi facevamo a gara a chi riavvolgeva prima girandolo con la Bic. Io ero campionessa di riavvolgimento nastro. Ma Silvia, io devo fare la domanda topica: tu cosa volevi fare da grande? Mamma mia, io sin da piccola volevo fare o l'attrice o la ballerina, subito proprio al centro dell'attenzione. Mi ricordo quando ero piccolina che facevo le recite nell'atrio della Scala di mia nonna, quindi proprio ero già ben decisa di voler stare, insomma, ecco, al centro dell'attenzione. Giusto, brava, ma giusto, ma diciamolo, ma non dobbiamo, ma nessun imbarazzo. Ma chi se ne frega, ma certo, anzi. E sì, come hai detto tu, poi la musica diventa una sesta protagonista, perché attraverso la musica che abbiamo ascoltato in quegli anni abbiamo raccontato anche altro, ecco. Che meraviglia, l'ho detto ancora, che meraviglia. Allora, ci vediamo all'uscita, edito da Sperling & Kupfer, un libro davvero che, io l'ho detto, secondo me si legge come vedere una bella commedia al cinema per passare magari un bel fine settimana sotto la copertina. Io lo faccio così. Allora, io devo ringraziare Silvia Rossi, salutami anche Stefania e Ilaria, Stefania Rubino e Ilaria Sirena, che sono gli altri due terzi dei trentenni, che poi sono tre trentenni, tre signore. Ormai quasi quarantenni. Vabbè, ma tanto ormai è i trentenni, il progetto sarete trentenni per sempre, non è che si può quello cambiare. Questo è fondamentale. Grazie a Silvia Rossi, ci vediamo all'uscita, edito da Sperling & Kupfer. Poi domani ti mando un messaggino mentre lo sto leggendo, forza, così ti aggiorno. Ti abbraccio anche. Grazie Silvia, grazie, ragazzi, e in bocca grazie al lupo per quella cosa che abbiamo detto all'inizio, in bocca al lupo. Che paura! Quando arriva? Il primo dicembre è il termine. Bene. Il primo dicembre per un mini trentenne. Grazie, grazie a Silvia Rossi. A presto. Ciao Marco, un abbraccio. Un abbraccio. Noi ci sentiamo dopo il giornale radio delle 17 per la seconda ora, quella di RadioTube Social Village. A tra poco. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.